Billy, su che andiamo, Billy. La campagna. Billy. Ebbè, Emanuele, tutto tace, tutto tace. Ebbè, Marco lì, mi ascolti, sì. Sì, ti copio così così, dai, c'è un po' di propagazione. Vabbè, sarà 2-3 giorni intanto che lascio acceso, ma vedo che è ben poca roba, poca roba. Prima aveva chiamato Giulio, aveva chiamato Natalino, mi pare, però stavo facendo roba di bricolage in casa, dai, e non potevo rispondere. Poca roba comunque. Non c'è più reazione, ma la mente sente morta. Un attimo, Marco lì, mi assento. Emanuele, questo passaggio è stato tribulo perché c'è quell'americano che è una cosa mai vista, oggi ha toccato 9.25. C'è uno splatter, cioè proprio c'è un'emissione talmente larga che abbatte i canali al fianco, capito? C'è una modulazione spaventosamente forte, e tanto che sta coperto, al canale a fianco mi. Aspetta, ma anche qua, grazie a Dio, i gargarismi stanno facendo, per carità, non mi copia più. Canale 10, c'è qualcuno? Grand Loop on Mississippi. Booyah, booyah, booyah, booyah.